modo in cui Renzi ha annunciato le sue dimissioni io giudico del tutto insoddisfacente, non all'altezza delle risposte che servono in questo momento. Renzi ha annunciato che si dimetterà più avanti, che lo farà solo dopo aver gestito lui direttamente questa fase di consultazioni col Quirinale, aver determinato lui gli assetti dei gruppi parlamentari, aver gestito lui la fase precongressuale. Non è così che si fa, non è così che fece per esempio Walter Veltroni quando si dimise appunto dopo una sconfitta elettorale molto meno forte. Qui c'è da rendersi conto di una cosa: c'è bisogno che questo partito prenda un po', che si aprano le porte e le finestre di casa, insomma, che entri un po' di aria fresca, che si riapra la possibilità di un dibattito che sia più coinvolgente possibile con i nostri iscritti, con tanta gente che è disorientata, che è delusa e che ha bisogno di parlare e di ascoltare, di confrontarsi con gli altri. C'è bisogno di capire in maniera franca, libera, cosa vogliamo fare e dove vogliamo andare, perché è evidente che questo modello che abbiamo messo in campo non funziona, che dobbiamo inventarci un altro. Nessuno ha la bacchetta magica, nessuno è pronto a, come dire, risollevare da un giorno all'altro le forze del Partito Democratico, ma l'unico modo per provare a farlo è provare a farlo tutti assieme. Questa è l'idea di un partito come quello che Renzi ha costruito in questi anni, in cui la pluralità interna non è rispettata, non è valorizzata, non può essere l'idea che domini una riflessione post-elettorale dopo quello che è successo. Quindi io mi auguro che a partire dalla direzione nazionale del partito, che è stata convocata per lunedì prossimo, ci sia una riflessione seria sul fatto che si azzeri il gruppo dirigente, ci sia una gestione collegiale di questa fase, si arrivi alla definizione condivisa di un segretario reggente che ci porti presto al congresso. Sui giornali oggi c'è una lettura del discorso, insomma, di Renzi di ieri, che sostanzialmente dice Renzi si vuole dimettere dopo la questione delle consultazioni per appunto gestire questa fase e in particolare scongiurare quella che qualcuno auspica come una possibile alleanza o un possibile dialogo con i 5 Stelle. Tu come la vedi su questo punto? Io non credo che ci sia nessun margine per un'alleanza organica fra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle e non ne vedo la fattibilità. Credo che se noi potessimo aiutare a creare una situazione in Parlamento che non sia il governo delle destre con un po' di responsabili, che duri in carica per 5 anni e che determini una svolta salviniana nelle politiche del Paese, ma che attraverso appunto un intervento poi delle scelte che Mattarella farà, noi si possa contribuire ad uno scenario invece magari più istituzionale, in cui tutte le forze politiche o alcune delle principali forze politiche siano impegnate in un governo, come si dice, di scopo, cioè fare la legge elettorale fondamentalmente per poi magari fare il bilancio di quest'anno che si approssima e poi tornare a votare. Bene, in questo scenario allora probabilmente sarebbe da andare a vedere le carte, ma è chiaro che nessuno può pensare che il Partito Democratico faccia la stampella al governo di Mario. In quel caso si tratterebbe di individuare figure terze che con appunto la regia o perlomeno l'input iniziale del Presidente della Repubblica mette in campo una soluzione transitoria di scopo. In quel caso io credo che si potrebbe anche andare a vedere le carte, altri scenari non mi sembrano realizzabili. Arrivano anche le prime analisi del voto e appare anche abbastanza evidente che una parte del corpo elettorale del Partito Democratico abbia scelto alla fine i 5 Stelle. Come sanare questa frattura? Lì ci sono tante cose su cui discutere, saranno ragionamenti non facili. Stiamo vivendo una crisi che non è certo solo responsabilità di Matteo Renzi, ci sono dei processi storici molto importanti in cui siamo dentro, che riguardano la crisi della sinistra europea, la crisi del modello socialdemocratico, diciamo, nato in un'area privilegiata del mondo, cioè appunto l'Occidente, quindi in grado anche di garantire una serie di benefit a una fetta privilegiata del pianeta. È uno scenario che è cambiato con la globalizzazione che quindi mette in crisi le vecchie ricette della sinistra. La sinistra in Europa non è riuscita a trovare delle nuove ricette e siamo, come dire, stiamo brancolando un po' nel buio di fronte ad altri che non hanno a loro volta nessuna ricetta, nessuna soluzione, penso alla Lega o al Movimento 5 Stelle, ma che continuano a far vivere le domande, non hanno nessuna risposta ma agitano le domande, agitano le paure, agitano le insicurezze, agitano la critica. Dopodiché noi bisogna che facciamo in fretta. Io penso per esempio che il Movimento 5 Stelle su alcuni temi, e non mi riferisco a tutta la polemica antipolitica, ma penso all'ambiente, penso al tema della trasparenza, penso al tema dei rifiuti, alcuni temi che riguardano aspetti molto sentiti insomma della popolazione, i lavori non tradizionali, abbiano messo in campo delle parole d'ordine che anche noi dovremmo mettere in campo. Il voto al Movimento 5 Stelle è un voto che prescinde dalle politiche del Movimento 5 Stelle. E abbiamo avuto peraltro un esempio lampante nell'elezione di quasi tutti gli espulsi da parte del Movimento. Quel Movimento, quel voto non ha guardato in faccia i programmi né chi erano i candidati, ma ha colto il Movimento 5 Stelle ancora una volta un voto di protesta. Trasformare la protesta nella proposta è la cosa più difficile per chi faccia politica, ma è lo spirito da cui nasce nell'Occidente quella che noi chiamiamo la sinistra, è proprio la volontà e la necessità di trovare soluzioni che migliorino la vita dei cittadini. Questo dovremmo cominciare a farlo, e su questo, solo e solo su questo, non inseguendo le paure, noi potremmo essere competitivi, tornare a essere competitivi rispetto alla Lega, il Movimento 5 Stelle.